800. No, già va bene, 80 canali, AM, USB, LSD, già ce l'ha avanzo. Fulvio, e tipo che è bello, il tornado ce l'hai sempre. È tornado! Ma è inutile che tu li setta se lo settano a te, dovrebbe essere reciproca la cosa. Lo so, ma loro non ti sentono, capito? Devi fare qualche cosa per con l'antenna, se la vuoi una tragamisuria. Bombolino, soltanto bombolino. Voglio così. Sì, siamo a due passi. Cazzo, se lo mettevi tu. Anch'io 5 ti ascolto, che apparato stai usando? A me stai dicendo già. Il portatile stai usando? Sì, ya. Esce bene, esce bene, sì. E l'antenna quella sempre una magnetica? Sempre quella lì, Mia Memi. Cavagata, va bene. Avanti, mia me. Che cavolo, quando mi chiamo due volte la stessa persona mi rompe i balluci a me. Vabbè, comunque adesso ho tutto sistemato, non mi richiama più, perché se no aspetta il telefono, ma vabbè. Cosa è successo, nulla? No, stavo parlando con Bombolino, ha detto che lui li sente tutti, però è inutile che lui li senta se lo sento a lui, deve fare qualcosa per migliorare. Noi lo sentiamo, va bene, riferimento, va bene, Claudio giustamente è più lontano, è pure Sassari, e quindi Zamuros non è che lo percepisce, e anche, vedi, Emanuele sente, ma sono tutti e due in condizioni precarie di trasmettere. Noi le sentiamo e siamo eccitati, e voi verso la zona sua è perfetto, mentre lui è più distante. Sì, lo so, deve potenziarsi, l'antenna sul tetto. Oh, tu, datti da fare. Ma se te la fanno mettere, sì. È un palo molto alto, ci vuole. Un palo molto alto. Ok, benvenuta. Ripeto un attimo, già che io faccio uscire il cucciuccio un attimino. Ma più su devi mettere le staffe, te le fanno mettere. Cavagata, no, perché la parte base ok, ma poi vi vuole mantenuta anche al centro il tubo, non è che lo vuole lasciare Binzulonia. Riprendi muro. Solo che si è trasferito di casa, non abita più e sta usando una boomerang in condizioni precarie, quindi non lo senti per quello, dovrebbe sollevarla, capito? macchina c'è per fondo scala. Ma silenzio totale. Già, anche tu già arrivi forte, infatti quasi per il 9. Claudio, adesso lo stesso, stavo guardando prima, era sul 7/8, comunque già arriva forte, radio 4, vabbè, noi siamo tutti vicini, ricca. Normale che arriviamo tutti bene. Siamo tutti nel circondario, dai. Antoni. Tutti muti. Santa Pulizia. La butta. La peccheria è mano, Antonio. Cosa, Manuel? C'è la peccheria è mano, Antonio. No, Antonio è stato a mangiare del pupuzzo. Gianni. Oh. E la gambuzza com'è stato detto? Cosa? La gambuzza com'è stata? Meglio, meglio, Tony. Stanno passando i dolori. Oggi ho tolto le calze. Faccio l'ultima parina oggi e ho finito tutta la cura. Dopo devo fare le visite. Sono andato al policlinico, mi. Oh, contando in scioltezza, diceva, vabbè, c'è stato uno sbaglio, se la faccio fare per la gamba, forse c'è stato un errore, e se c'è, a Ghida l'aveva ritagliato un seno al posto di un altro, è un errore anche quello. Vabbè. Lui era scopo di venuta, no, per carità, senza sanità. E il dottore se ne è reso conto, anch'io me ne ho reso conto, infatti il dottore ha detto non è possibile, uno lo operano la gamba e gli fanno fare le lastre e le ginocchia, stiamo scherzando. Ma vabbè, c'è quello addirittura che devo operarli la parte destra e la parte sinistra. Se ne sentono già, perché esatto, gente, io ho parcheggio, sono andato fuori a operarmi. Ma anche io non mi vedo più della Sardegna, sono studiati alla via della laurea, hanno invidiato anche di Brici. Oggi promuovo a tutti, allora niente, la personalità è mia e quindi non mi faccio toccare da questa gente. E ho indovinato, ho dato fuori. Manuele, e tu, già tra me adesso sì. Sì, già te l'ho detto, che quando mi alzo mattina sì, un po' di dolore ce li ho, poi da piano, basta, però non è che sono proprio al 100% che sto bene, i dolori ce li ho sempre. Io la verità, quando mi corico, la mattina, perché sono un bel po' di ore a letto, quando mi alzo, ne risento un po' la schiena, ma come mi metto in piedi faccio tutti i macchini e sto bene. Se mi siedo, sto mezz'ora, mi devo seduto, quando rialzo mi sento leggermente e poi mi passa subito. Però, ripeto, ho anche dovuto, anche dall'incidente che ho avuto, e quello ha influito molto anche per il piede. Comunque, tutto sommato mi sono ripreso anche, non diciamo in fretta perché sono passati 5 mesi, tutto fa. Andò bene, abbiamo chiuso la pratica il 16, adesso il 19 è andato dall'assicurazione, adesso vediamo se ci chiamano, se no si va in tribunale. E allora chiediamo molto, molto, molto di più anche all'avvocato, tra l'altro. Ui, ui, ui, che gente, però fare il CIT, la mazza gliene in varia. Non lo so come c'è l'assicurazione, che se vuoi. Sono così, l'assicurazione sono così. Lo so, pagare il poco. Bene, veda, chiodo l'uginito, riprendi. È sotto il tuo grichellone, nonché capri due che non ho più sentito. o 23 canali di quelli proprio vecchi vecchi, e già va bene. Sì, però se è possibile, giustamente non è che bisogna di sottofare, però va bene anche col testo, mettere il continuità e vedi se è buono, perché a me ho trovato fino alla torcia, se è possibile, mi dava continuità, invece c'è, no, pardon, non mi dava, lo vedeva un occhio nudo e mi sembrava perfetto, invece no, ho trovato col testo, in continuità, invece mi dava negativo, capito, quindi. Niente, va bene, ok, vediamo se Antonio ha ripreso. Antonio? Claudio. C'è poi entrato uno che ha cercato involontariamente di entrare, ma usciva la radio tutta buh, e non sapeva chi era. Claudio, come sta il dog de Bordeaux? L'altro giorno ne ho visto uno al quadrato ed era della cameriera del bar dove stavo a prendere il caffè. Mi sono avvicinato e ho detto che bello, le metto, se vuoi te lo do, non riesco più a gestirlo. Si è preso la lesmaniosi e gli sto dando le due pastiglie al giorno, però dice il cane non è più lo stesso, capito? E non riesce più a gestirlo, ha detto. Con questa malattia, dice, me l'hanno detto che va e si aggrava sempre di più. Thank you. Riccardo, riferiti. Ho capito, volevo un attimo vedere perché ho cambiato microfono, se va bene, stavo provando questo Turner più 3. Bene, quella parte mia, perfetto. Bene, dai, mi fa piacere. No, comunque, tornando al suo discorso, mamma mia, dell'Altman Music, che è venuta al cane di, mi sa, il cane di mio zio, e sta iniziando, perché mio zio poi non è mai a casa, quindi adesso non l'ha notato, gli sta iniziando a perdere quello sulle orecchie, sta magra. Ma Riccardi, diciamo che ci sono dei periodi che stanno meglio, poi si riaggravano, e l'Altman Music è così, si sa che non passa, addirittura ce l'aveva un mio collega, gli sono cresciute le unghie a cane da caccia, che usava per caccia il padre, fece un bersetter inglese, e gli sono cresciute le unghie, gli sanguinavano, poverino, ha perso pelo, guarda, e dopo è morto. Cavolo, no, è brutto, brutto, infatti, cioè, perché soprattutto il cane, quello di mio zio, diciamo che più predisposto a prenderla, tipo il, perché lui ha un Doberman e poi vabbè anche un Fox Terrier, un Bull Terrier, però più che altro il Doberman si vede proprio a presa, infatti adesso è così, non so se si riprende perché lui non ha mai tempo magari per portarlo, infatti non so neanche se l'abbiano fatto. Poveraccio, io una volta mi ricorderò sempre, sono andato a portare, a ritirare delle merendine per la ditta dove lavoravo, e questo capannone, e c'era questo pastore tedesco, mi si è avvicinato, che l'ho visto si stava leccando la coscia, poi mamma mia cosa ho visto, c'aveva un buco fatto dalle larve delle mosche con i vermi dentro, e gli ho detto al padrone, ma quando mai deve lasciare il cane così? Non c'ho tempo di portarlo, questo e quell'altro. E cioè, per il buco, si vedevano le ossa. No, infatti, a lei, mi sa, stava venendo, ho visto un buco sul costato, però, boh, cioè, adesso, l'avevo visto, tipo, un paio di mesi fa, adesso sembra un po' meglio, non lo so se, ovviamente, un po' si è ripresa, però, male, già sta male sempre. Ma se c'è una ferita, si cala una mosca, rimuta i vermi, rimuta le larve, e se lo mangiano, se lo mangiano vivo. Ho capito, no, infatti, no, cioè, quella secondo me, cioè, mi spiace, ma questo non è un campo, infatti sta un bel male, cioè, a volte non ho voglia di fare niente, perché, cioè, rispetto a prima l'avevo saltata, adesso non ho più voglia di fare niente, debole. Tu cane non è più, Riccardo? No, io già ne ho sempre, sono 5 bassotti e 3 pastori australiani, però quelli già stanno bene, i bassotti già sono dentro casa, e i pastori australiani sono dove ci sono i cavalli. Cavalli quanti ne hai? 2? Quello uguale a quello di più piccaccio, l'uno e poi un altro. No, siamo arrivati un po' indietro, quello di più piccaccio lungo da Cotta è morto da 1,5-2 mi sembra, e adesso ne abbiamo 5, ne abbiamo uno spagnolo, poi un'altra femmina spagnola che è arrivata, che era incinta, quindi ha partito la pledra, e poi altri 2, una berignese e poi un'altra americana. Ah bene, dai. Ma li cavalcate, sì? Sì, li sto aprendo tutti, tranne la femmina, con la pledra femmina, sta riprendendo dato che ha svezzato la pledra, cioè adesso l'abbiamo separata da posto perché ha già fatto 6 mesi e quindi adesso la stiamo un po' separata, vabbè, l'ha aperto l'altro giorno la femmina, la pledra adesso ha 6-7 mesi e ai 3 anni la dona. Buongiorno, avanti, sono io, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Eugenio, tu sì? Sono io. Appena acceso, schiacciato. Buonasera. Beh, abbiamo un po' monopolizzato con Riccardino e con chi la regista sta parlando di cani, di animali e cose. Rilanciamo a Torino così per i saluti. Avanti, Torino. Non ho capito che era entrato perché aveva passo. Eugenio. Ai. Bravo, Riccardo, che fare il ripasso. Ciao, Eugenio, ben sentito anche da parte mia. Evo, cioè se c'è ancora Cinco, Cinco ci sì. Manuele? Sì, buonasera, Riccardino! E allora, che si dice? Ciao Eugenio, ben sentito, tutto bene, niente di che. Sono appena tornato a scuola da due giorni, e quindi così, là, sto bene, e tu? Tutto a posto, tutto a posto. Bravo, tutto a posto, sì. Sì, tranquillo, è tornato da poco a lavoro. Adesso rimani qui a studiare a parlare, e intanto ci stavo sistemando un attimo i cavalli, tanto che facevo in fretta, perché un po' li sistemati io prima che arrivasse. Ah, no, capisco, salutami. Ok. E io come arriva? Già glielo dico. Piace ancora. A capo che ci sono. Ho capito, bene. E invece Claudio ci abbiamo tutto indietro. Muros! No, niente, stavo un po' lanciando che dopo, cioè, che pensavo di averti dimenticato che perché è entrato Eugenio e stavamo salutando Eugenio. Ci mandavano prima. Della concessione, perché ieri c'era una voce che dicevano che siamo tutti quanti pirati, che dobbiamo pagare la concessione e rifare tutto quanto. Boh. sono andato sulla gazzetta ufficiale, non c'è scritto nulla. Sono andato sulla gazzetta ufficiale, non c'è nulla. Non avrà detto questa voce qua che era di amatore? Non lo so, lo stava dicendo Natalino che l'ha sentito, poi non so chi l'ha detto, chi non l'ha detto. Perché saranno gelosi che noi non paghiamo, loro pagano, per esempio, spesso. Perché io ho sentito un radioamatore che diceva che non è giusto che loro devono sempre pagare e lui ha tolto la tassa. Questo l'ha detto un radioamatore in frequenza sulla 27 MHz, da specificare, non voglio fare né nome né cognome. Ah, basta che si impicchi e vedi che non paghi, che non paga più niente. Guarda la corda. Ah, soluzione trovata. Manuele è sparito, è Manuele, che tu sei cucato. Ma niente. No, è già grassoccio, poverino, dai. Ancora più ci siamo, ma deve diventare. Sì, grassoccio, non è grassoccio, è grassato. C'ha le mani di buco, va. Voglia. Vabbè. Comunque. C'ha il portatile sempre, Manuele. Eia. Oh, ma sente la cantante, forte forte. Perché il microfono è buono. C'è anche la discoteca, lo devo di più. È sottofondo musicale per il QRM. io c'è Antonio mio. Vabbè dai, vediamo che dica. Antonio, sei rientrato al Moppolo? Niente, Antonio non è rientrato. Vabbè, Eugì, come ti arriva a te a Pro Torres? Prova con me, non sto guardando. Non so, sono piccolino perché c'ho una posizione un pochino bruttina io. 1, 2, 3, prova di modulazione, avanti Eugenio. Tra 4 a 5. Come schiacci 4 poi farli sali a 5. E la radio è buona almeno? Sì, la radio è buona, è buona. È l'importante quello della radio. Andrà bene, Riccardino, ripeti. Quindi così. Mi sa che io adesso vado, così iniziamo. Che ore sono? Non so che ore sono. Aspetta, sono le 6.47, da magari se lo aiuta babbo, vado a dargli una mano, che così poi ci organizziamo per mangiare, mi sa. Ok Riccardo, dai, buon corretti, grazie per il QSO, quando voi siamo qua. Avanti tutti. Cappa, Riccardo, quando vuoi ce lo sai. Io dalle 5 e mezza, 6 meno 4, accendo il baracchino e mando se mi ascolto come oggi sei entrato, c'ero io. Ok, tanti salutoni alla tua Gricalona, al tuo Gricalona che è Sergio e alla tua parallela. Un salutone, quando vuoi entrare siamo qua. D'accordo, qua buon corretti. E riprendi che ho reggito. Che abbia chiuso. Avanti Eugenio di nuovo. Chi è questo Emanuele? Nuovo? No, non è nuovo, è vecchio. Ci ha dato in interno oggi, è mio figlioccio. Emanuele 5, prima che aveva l'antenna che abitava l'altra casa era più forte, adesso c'era, e abita un palazzo di, non so se sono 5-6 piani, ma il tetto è fatto proprio Molto strano, e quindi è difficile mettere una sera di sopra. Ecco perché c'è un attenito interno, poi la nuova verità, primo piano, fate il conto. Magari se modula riesco a tirarlo fuori. Zona alta, bassa, il chassis. No, no, l'altro ci sembra quella zona più o meno. Si sente bene il piso, eh. Ah, ho capito. E magari non riesco a tirarlo fuori. Non so, è difficile perché lui c'ha un'azienda con la base magnetica attaccata al frigorifero dentro casa. Attaccata al frigorifero. Andate, andate. Già lo sentiamo, a Basile, ma lo sentiamo, dai. Andrà bene, ok, riprendi già. Io lo sento forte. E a me arriva quasi nove, mi fanno vedere. Ma non c'ha più il portatile, c'è qualche apparecchio più forte. No, ni. Ma non c'è le prove che abbiamo fatto oggi, che mi ha chiamato? Sono stato a te, non ha fatto all'altra. Scappa. Aspetta che provo a chiamarlo alla pazza, che fino ha fatto il cicomino. Ci sarà sempre il frigo e l'antenna non funziona più. Fa pila dopo Gudu. Natalino oggi non si è sentito, Natalino ci sei. Oh già. Hey. Tu non ci credi? Ho messo il copro in vendita, no? Quale? Quello che ti ho dato io? Mi è arrivato un messaggio, sei disponibile, ho detto sì. Caso strano, questa è Elena Jovirerbo. Nessun problema, acquista in compenso, effettuerò il pagamento tramite HVHL Express. Consegna in busta e non appena riceverai il denaro, manderò TNT a casa tua per ritirare l'oggetto. Queste sono le solite truffe che stanno facendo molte persone e ti richiedono giustamente il numero della carta. È proprio ciò che dire, ma. Ma può darsi di no. Può darsi di no, Tony. Che ti dica, la numero della carta cosa fanno? Se tu non c'hai soldi non ti bilani nulla, ti devono solo depositare la carta V. Ma Noè, ma già, a me è arrivata la pensione, io va bene, sto con tutto in fretta, però giustamente arriva il giorno che io la lascio qualche giorno in più, automaticamente loro entrano anche i miei credina. Ho chiesto già un amico mio finanziere, se questo ha fatto qua, l'ho fatto vedere il messaggio, ma detto non darvi mai il numero dell'IBA, perché loro ti chiedono l'IBA, è la terza volta che ho il suo messaggio, ogni tanto cambierò il nome, ma il messaggio è sempre quello già, li conosco già, a futtimini, mai rispondere a queste persone qua, ma hanno detto io conto non ne ho, quindi mandami i soldi. Fammi un bonifico e io ti mando l'apparecchio. Cappa, no, dice lo manda lui in corriere addirittura a prenderlo, ma c'è una volta me l'ha mandato sulla moto che ce la stavo vendendo, che veniva il corriere, lo impacchettava, ha detto scusa ma il pacchetto è una moto, ma tu sei tutto macco, cioè un Suzuki. Ma cosa, il corriere non fa nulla, lo devi preparare tu, lo ritira e No, no, dite mandava il corriere a conto suo, impacchettava il tutto e se lo portava via, dopo che mi ha mandato i soldi, si impacchettava una moto, ma io ma capirò che ci sono tutte malle, no, ma se ti arriva anche a te, prova a continuare a scrivere, eccetera, e poi ti dice, dammi il tuo nome, il codice IBA, e vedrai che è la fregatura. No, ma io l'IBA non lo do. E vabbè, comunque, conviene venderlo qua se lo vendi o a gente normale, non con tutti questi intrampugli. A me mi avevano fregato col West Union il pagamento. E allora, a me me lo mandano direttamente a voi, e tu ci capisci a luci. Non voglio sapere niente. Oh, yeah. Ma intanto no, va bene che me lo tengo intanto, già va bene. E piccolino, pelluccio, cambia colore, la Svizzera. Andrà bene, chiudo il sito, riprendi. Thank you. ciao, ci sentiamo, dai. Buon corretti, grazie per il corso, ci sentiamo alla prossima. Avanti Torino. Chiappa, ciao Claudio, ben sentito, salutami il cuore familiare, ci sentiamo alle prossime. Avanti Eugenio. Non penso che mi sia, comunque salutalo io. Io tiro fuori solo un borbottio, non riesco neanche a capire. Ciao, ciao, ciao, mi senti, ciao. Oh Gianni. Nara. Ma Tattarino che fine ha fatto? Tattarino? Boh, non ho sentito manco io stasera. L'ho chiamato e non mi ha risposto. Quello è letargo a calduccio. Madonna, se n'è andato. Ciao Tony, ciao Gianni e ciao Eugenio. Natalino se n'è andato a donne stasera, non stavo pensando alla frequenza. C'è la moglie che ci può fare lo grosso. Emanuele, a vedere. E tu perché fai la spia, eh? Perché fai la spia tu? Ciao Natalino. Hai visto, molto ci vuole farlo uscire dal nascondiglio. Adesso Concetta a prendere il mattarello e guarda. Beh, Tattarino, cosa sei con Milene? La dici di buco di me. Non ne avevo voglia di parlare già, la verità. Ciao Giulio. Ciao già, tutto bene? Ciao, già mi capisci che a cosa mi riferisco? Sì, si sta procedendo bene, stanno diminuendo i dolori e tutto, dai. Non mi posso lamentare. Oggi faccio l'ultima eppalina e così ho finito la cura. Ok, sono contentissimo per te. Questo mi fa molto piacere. Avanti Tony. Ciao. Tony non lo sento, Tony. Chi era con la voce bassa bassa, oh Gianni? Non ho capito. Bombolo, bombolo. Adesso ti ho sentito, ciao a tu, ben ascoltato, dai, non te lo posso dire, però mi fa piacere sentirti, almeno basso basso, però ti voglio ascoltare, avanti a tu. Antonio qua è fortissimo, ma forse perché siamo vicini. Io penso che sia un problema solo di antenna, Giulio, perché qua arriva fortissimo, anche di radio. Oh Gianni. E a quanto pare Emanuele c'è, però dice che lo stiamo calpestando tutti, siamo veloci a prendere il microfono e non riesce a entrare. Aspetta, c'è un po' di bianco. Emanuele. Sì, non c'è problema, dai, fate voi, fate questo, tanto vi ascolto, dai, tranquilli, no, non c'è problema di picche e pompe. Riprendi, ho già. Io ti ho chiamato due o tre volte e non mi ha risposto, ti abbiamo chiamato, ho detto boh, c'è Dromiglio. No, mi sono attentato, sto facendo delle cose in casa. 9:10, ma noi ci ho aumentato il segnale, non so cosa hai fatto, ce le altre vitamine. No, l'ho pagato un po' l'antenna. Allora ci va bene. E ora che si dice da roba a avanti Giulio. Ok, sì, saluto a Emanuele se mi ascolta, perché io no, sinceramente non lo sento, è troppo basso. Sento che sta parlando, cioè sento il bisbiglio, ma non capisco quello che sta dicendo, peccato. Vabbè, comunque avremo modo di sentirci magari in un'altra condizione migliore. Va bene, dai, fai girare Tony. Scappa comunque Emanuele, no Emanuele, Emanuele, ok, bene meta. E vabbè, io cosa vuoi dire? Antonio ha detto la prova normale, dai. Antonio, tutto a posto? A che merendina ha fatto l'hai tu? Alla tua 50, no? Perché c'hai il grichellino, caro Antonio, abitati. C'è un figlio, vivete insieme, dai, la tua 50, punto, che cavolo. No, ma che di solito io te l'ho detto, perché tu di solito fai lo stuzzichino a mattina, a chi c'è ora. Cioè, ti abbia di farlo a cena, fare i stuzzichini, capito? Te, mica parli male ad oggi, lascialo a Gianni il panettone. Lo sa che a me invece mi hanno dato la fregatura, non ho trovato più nessuno prezzo, giusto dare la conta a prenderlo, perché per Capodanno l'erosino ce n'aveva più, a me piaceva quello senza canditi, solo quello qua passa, e vabbè, pazienza. Gianni, tu penso non è più il suo palettone, dai. Ecco. No, no, non è più. Avanti, break. Buonasera Gianni, Carlo. Buonasera. Chi c'è? Giulio, Natalino, Antonio, chi mi sta di... Manuele, ho sentito. Chi c'era? Non me lo ricordo più gli altri. Carlo, ti metto gli anguriti. C'è Eugenio da Portatore, Scarlo anche, buonasera. E c'ho anch'io, ti metto di strozzo. Tonino, buonasera. Tonino, forse avevo sentito anche Eugenio, perché avevo acceso ma mi ero spostato. Sì, sì, buonasera a tutti. Riprendete pure, sono entrato a salutare forse anche Giulio. E buonasera anche a Natalino. Addirittura ho sentito anche Emanuele, caspita, con la tenere interno. Non sono molti che lo ascoltano. Bene, bene, sono contento che lo ascoltate. Ok, Giulio, riprendi per Carlo. Ok, Tony. Ciao Carlo, ben ascoltato. Bello il MIP, mi piace. Però voglio salutare anche Eugenio, che mi sembra che non l'ho fatto ancora. Eugenio, mi ascolti? Carlo, che apparato stai usando? Per il solito, solo che non avevo mai messo il BIP perché è una mezzo porcheria. Ah, oh, è bellino. È un bitonale, bellissimo. Adesso vedo un io neanche lo sento. Vedo che c'è RGB, Roger BIP inserito, però non lo sento qua. Vabbè, dai, il così sentite il Roger BIP almeno. Antonio non ha un bambino, ha un bombolotto, l'ho visto io quel bambino, ce l'ha su WhatsApp, è un gioiello. E beh, si chiama bombolotto quello. I bambini piccoli sono tutti bombolotti, bellucci, a me piacciono tantissimi appunti, ti tengono molta compagnia, gà. Eugenio, ci sei? No, mi sa che Eugenio ha ballato, eh. Manuele, ci sei? Natalino, riprendi, cosa non avevi voglia di modulare? Sì, non mi sento bene, no. Vi saluto tutti, ma già sono in ascolto, dai. Ma cosa c'è, Natalino? Sì, non mi sento bene, devo avere l'influenza, boh. Mamma mia. E purtroppo c'ho un periodo di cacca, ho visto il freddo di coppa che ha fatto da ieri, freddo a freddo, oggi, boh, non si capisce più questo tempo, guarda. Ma l'ha detto che l'inverno stava rientrando in colpo. Io so, è lo stesso, c'è Frendino, c'era in casa, ma ha preso il condizionatore, ho delle temperature che posso fare con il golfo in casa, no? Ci vuole un po' di caldo, e così ho fatto. Avanti già. No, io qua già c'è abbastanza caldo, sì, sono i termosifoni accesi e si sta bene, dai. Una temperatura buona. Anzi, già appena sollevati, deve essere, perché prima un po' di freddo si sentiva una certa ora, invece adesso c'è il tempo. Ebbene, io guarda, c'ho caldo in cucina senza accendere il condizionatore, se in tal caso cucino al forno perché mi scaldo tutto. Niente, il camerone invece dove c'ho l'apparato, ho acceso il condizionatore, sta più meglio. Carlo, riprendi il microfono. No, lo stesso, stasera c'era il forno acceso e c'è caldo in cucina, melanzane alla parmigiana e un pezzo di formaggio, stanotte si cena così. E no, qua già c'ho i riscaldamenti e partono, li stiamo mettendo dalle 5 sino alle 9, solo 4 ore perché col cappotto termico se no te ne fuggi dal caldo. E già va bene, dai, cazzo, la parmigiana. Sono buone, l'ho fatto una volta, ma troppo per prepararle. È una preparazione che ci vuole un po' di tempo. E io, a me piace poco cucinare, cioè piace molto quando c'ho qualche persona invitata, è diverso. Ma se sono solo, mi bacia la gana, tutto qua. Ok Natali, dai, buon Corix, se hai bisogno di qualcosa te lo sai, non c'è problema, il mio numero ce l'hai, mi chiami, ne scelto io, ok? Sappi questo, che da amici ce l'hai. Beh, spero che abbia copiato. Avanti già. Figlia. Carlo, come ne cucini? Ne friggi con la friggitrice ad aria oppure ne friggi proprio? La verità le ha fatte mia moglie, prende le melanzane, c'è uno strumentino che le fa a fette sottili, laterali, e poi le griglia, non le fa fritte, se no prendono troppo olio, grigliate. Poi le fa raffreddare, le mette in una teglia, mette il parmigiano, parmigiano e uno strato di sugo, di nuovo parmigiano, qualche pezzettino di mozzarella e poi fa lo a strati, così fa due o tre strati, capito? E poi sopra alla fine mette il sugo, di nuovo il formaggio parmigiano, qualche pezzetto di mozzarella che si scioglie ed è una bomba calorica, però vabbè, senza esagerare, mangi una bella fetta e già è buono. No, perché c'è chi le fa che a crudo non le frigge per niente, o chi le fa con la friggitrice ad aria, dai. No, noi le facciamo con le fritte, la verità, le facciamo scolare bene e poi facciamo come le fai tu, solo che ci metto al posto della mozzarella il filante. No, io le faccio tutte diverse già. Ho un coltello che ti dà la misura delle fette, uno, poi le faccio una bella tipo X nella fetta, le metto un po' di sale fino e taglio l'acqua. Poi le metto in forno, dopo fatto il forno, uso la procedura infatti cui ha detto Carlo, sugo, formaggio grattugiato, un po' di mozzarella, poi di nuovo ripeto il tutto. Dopo le rimetto in forno e quando è insomma tutto a posto ho già le ricche accredita, troppo buono. E la facciamo anche a casa, sono buone anche quelle che fai, sono buonissime. Io ci metto un filante o mozzarella, dipende dalle volte, se c'è il filante metto il filante. Ma noi il fritto fa male, già lo sai già, ecco perché lo faccio al forno io. Lo so, ma i sapori sono diversi secondo me, a me la roba fritta mi piace di truppo, i calamari, quanto mi piace. Ma non è per noi, lo sai, sì, sono buona che a me piace, però ripeto, il fritto è fritto, e quindi è sconsigliato, me l'ho detto il dottore, quindi meglio il forno, ma mi sono abituato così. Avanti Carle. Adesso faccio una foto, Gianni, e te la mando della teglietta, così vedi come esce la parte, diciamo, esterna, quella superiore, tutta bella croccante. E avanti Giulio. Mi vuoi far vedere la foto? Ok, riprendo io. Allora, sì, anche mia moglie le fa così, in teglia o con qualcosa, formaggio, eccetera, eccetera, e poi messo in forno. Tagliata a fette, sugo, eccetera, poi le mette in forno, le mette, ma escono squisitissime. A me non me ne chiedete come ci cucino, perché io non so cucinare niente, non so fare nemmeno due uova fritte, per dire, no? Però le merendane fatte così, come stavi dicendo tu, Tony, sono molto buone, a me piacciono moltissimo, e noi, mia moglie le fa abbastanza bene, dai, riprendi. Cappa, però c'è un bel po' di lavoro, capito perché, tutto qua. Vediamo se Mombolo le è venuto appetito sentendo una mezzana, avanti a tu. Beh, io ho tempo, quando facevo fritte mettevo molto 3-4 strati di Scottex, così ci assorbiva l'olio, tutto qua. Compri Giano, a proposito mi carro che tu te ne mando la foto di Gianni, adesso non è che ti viene la moglie e ti mangi il telefonino. No, non ne ho melanzane a portata di mano. No, quello che sto pensando io è di prendermi la friggitrice ad aria, così evito di friggere, le faccio ad aria e via. Conviene. Parlare bene di questa friggitrice ad aria, ma in cucina c'ho forno a microonde, poi c'ho quello per scaldare i toast, c'è il forno, c'ho la radio, eccetera. Se mi pongo la friggitrice ad aria non ci sto più io. Vabbè, la conservi, quando non la usi la metti nel mobile e poi quando ti serve la togli fuori, come noi facciamo con tante altre cose. E noi ci abbiamo fruste, ci abbiamo un sacco di roba, robot, guido, guidasso, lo stesso, non ti credere, ci abbiamo addirittura la macchina per fare lo zucchero filato. Sì, no, già ce l'ho, a parte gli scherzi, lo spazio, però già ci aggiustiamo con quello che abbiamo. Però sì, con quella dice che viene molto bene la roba, ne ho sentito parlare da miei colleghi che ce l'hanno, questa friggitrice ad aria, e deve essere fenomenale. Ci farò un pensierino, ma più in là, adesso no. Già, Monica ce l'ha, anche la madre l'ha presa, io ho assaggiato ed è buono veramente. sa che mia figlia ce l'ha. Anche mia figlia mi ha detto che fa le cose buonissime, anche le patatine le fa buone. Solo che tante volte è l'olio che gli dà proprio sapore alla roba, capito? Sì, ma mia figlia ha detto che un filo di olio proprio glielo dà, capito, quando le mette nella friggitrice d'aria. Se lo vuoi mettere, un filino glielo dà lì, ma proprio c'è, non c'è lì. Ma è meglio non usarlo l'olio, sennò non è più friggitrice ad aria, è friggitrice ad olio. Vabbè, comunque me l'hanno fatto bene anche a me. Ho sentito qualcuno che diceva che non gli piacevano i sapori, però quasi tutti me l'hanno parlato bene. Sì, infatti ce l'abbiamo anche noi quella d'aria, o Gianni, e fa dei piatti abbastanza buoni, non c'è problema, ed è anche molto comoda d'inverno, ad esempio, perché scalda molto la cucina, mentre invece in estate, guarda, è quasi impossibile utilizzarla, perché manda talmente caldo che non si può stare se la usi per molto, capito già? L'attacco in veranda, apro una parte della veranda, la metto sulla cucina che c'è in veranda e la uso lì e i vapori vanno fuori. No, per quello non c'è problema, ma io me la voglio comprare grande, se me la prendo me la voglio prendere grande, di modo che se devo fare qualche cosa di grosso riesco a farcelo stare, dai. Sì, beh, certo, no, ripeto, è comodissima. Vengono bene anche i piatti che tu cucini, vengono anche bene, e poi fa anche in fretta, devo dire la verità, fa anche in fretta, per cui il consumo non è così esagerato come si può pensare, perché essendo elettrica, sai, lì consuma molto, però fa in fretta e non è così esagerato il consumo per ogni piatto che tu puoi cucinare. Vai Tony. No, ripeto, io ancora non l'ho presa, ma se voglio evitare di comprare anche l'olio, perché c'è l'Italia Stelle. Dai, non si può comprare un litro di olio, il girasole è quasi 3 euro, ma stiamo scherzando. Se mi avrà anche la messi, no. E infatti, adesso vediamo, il giorno che mi gira il pallino, per esempio oggi sono io, mi sono comprato il PC. E adesso ai 30 e ci mi occupare, cioè me l'ho comprato. Ora c'è che niente, dentro anche domani, dopo domani, il mazzo di capo, vabbè, me l'ho comprato, cioè. A me piace quella grande che ho visto, che costa quasi 300 euro, a me piace quella lì, che c'ha piano sopra e piano sotto, che ci fa pure roba, le altre piccoline, bruffa, non mi sa di nulla. Avanti, a sé chi c'è? Antonio Popolo. Antonio. E che c'è Eugene? Eugene mi ha rilasciato, non ha ripreso. Eugene, sì. Antonio. Ma non l'ha comprata da Eurospin, era un'offerta, l'ha comprata da Eurospin e mi ha detto che funziona benissimo. Lo so, come te l'attaccavo, perché io adesso olio non voglio più comprare, quel girasole, quello che è troppo caro, e se continua così aumenta sempre, chissà che fine faremo, non lo so. Avanti Gianni. Manuela l'ha presa, per dire, a Bologna l'ha presa da Eurospin, ha detto che funziona benissimo. Era un'offerta, l'ha presa lì, l'ha pagata una fesseria, e dice che funziona bene, fanno patatine, calamari, tutto. Non mi ricordo già se era 49 o 69 euro, 59, non una fare del genere, perché che mia figlia l'ha presa all'Eurospin. Ti sto dicendo, funziona benissimo, ma allora è contenta, ha detto che fa tutto bene. Va benissimo, veramente, va benissimo, guarda. Tony, se devi prenderla, prendi quella più grande però, perché così ci stanno più piatti, puoi fare tutti insieme. Se prendi quella piccola non ci sta niente, quella grande prendi come quella che abbiamo noi e puoi mettere più tiglie, capito? Non so se due o tre, adesso io non lo so, perché ripeto non cucino, però so che minimo sono due tiglie, puoi mettere. Sì, ma Giulio, non è che mi dà la più grande, se questo devo invitare, perciò da fuori devo invitare. A me è raro che vengo persone. Una amica viene soltanto il giovedì qua, qualche volta capita anche di altri giorni feriali, però ripeto, è sprecata quella grande per me, perché a mio quando mangio soltanto un primo o solo un secondo io sto troppo bene, non voglio più abbuffarmi e niente, mangio poco perché ripeto devo smaltire anche un po' di peso. E c'è questo cavolo di pancia, non riesco a calarla, anche se sto mangiando pochissimo. Vabbè, prima o poi già ne va la camanza. Tanto buon carico, ci sentiamo sotto a chi tocca. Tanto buona carica, dai, ci sentiamo alla prossima. Avanti. Ok, ciao a tu, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo alla prossima. Oh, Tonino, ma io non la penso come la pensi tu. Secondo me, se la prendi quella grande, puoi fare un primo e secondo contemporaneamente, per dire, no? A seconda di quello che vuoi cucinare, e risparmi anche in corrente elettrica. Invece, se prendi la piccola, ci sta solamente una teglia, fai un piatto e basta, e poi magari per il secondo devi consumare ancora. Ma comunque, ognuno ha le sue idee. Non è mai, con un elettrodomestico, quando è comodo in casa, non è mai trecato. Ogni tanto la differenza di prezzo non è così tanta. Dai, dopo mi rispondi, adesso lo rilanciamo per Carlo. Vai Carlo. Intanto faccio una domanda a Tonino. Più o meno l'ingombro di questa friggitrice ad aria com'è tra la piccola e la grande? Quanto forno a microonde o più piccola? Allora, diciamo che è una volta e mezzo di quella che vendono attualmente. All'incirca la cosa del genere non è molto grande, capito? Però non è quello il fattore. E cosa ne faccio io solo di Carlo? E cosa cucina Ballacri? Allora io, innanzitutto se io mangio un buon primo non ti tocco nient'altro, sono fatto così, e poi mangio la frutta. Se mangio un bel secondo lo dico che mi ammuffa, perché assolutamente non è da me. Se mangio un bel secondo a me mi sazia, mi basta. Mi sto abituando a mangiare poco perché voglio essere un po' a dieta, capito? E poi il resto non è per il costo, perché costa quasi 200 euro, non mi frega niente, contro le 60 euro che costa quella normale piccolina. Per me va bene anche la piccolina, perché cucino una cosa e basta, capito? Però ripeto, sto anche pensando, e dove la metto? Perché io oggi ho preso la parte del PC, ho preso l'altra roba, ho fare comprato, e adesso mi ho occupato i mobili, non c'è più posto. Il bello è quello, dovrei costruirmi una mensola. Sì, e purtroppo io ho la casa da metà zeppa che è un macello, non ci sta più niente. Io su internet ne ho visto diverse, anche medie, Torino, tra la piccola e la grande c'è la media, costa 119-120 euro e sembrano belline, sembrano abbastanza grandi. Tu Giulio dove l'hai presa? Beh, non credo che l'abbia presa da un euro, l'ha comprata mia figlia, era andata, non vado io a comprare queste cose, io non è che ne intendo più di tanto, è andata mia figlia, ma devo dire che è molto bella. Sì, infatti quella microonde abbiamo anche quello noi, poi l'altro forno lo stesso, ne abbiamo quattro in tutto, dico, cioè abbiamo il forno grande, il forno piccolo, quello ad aria e quella microonde, anzi con la microonde ne abbiamo uno in più, addirittura